Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Ho viaggiato tanto. Mentre veloci passavano gli anni, regolari, costanti, come il ritmo del treno, uguali e confusi come gli alberi che mi correvano incontro. Mi chiamo Ivana, ho 70 anni, sono pensionata da 10, ho smesso di insegnare al liceo materie scientifiche e adesso mi occupo di poesia e di ecopoesia. Provate ad immaginare per un attimo la vostra vita come su un binario, come sul binario di un treno. Provate ad immaginare tutto l'arco della vostra esistenza, da quando avete memoria più o meno ad oggi, come il lungo viaggio di un treno, come una carrozza, o meglio come un treno che si trascina delle carrozze e corre, si ferma lungo delle stazioni, su questo treno salgono delle persone, quindi le incontrate, le conoscete, ci fate un pezzo di strada insieme, poi alcune scendono, altre rimangono. Immaginate quelle stazioni non solo come dei luoghi, non solo come le città in cui avete vissuto, ma anche come periodi della vita che avete passato, stagioni che avete vissuto. Provate a immaginare la vostra vita come un viaggio in treno. 349-238-6666. Se invece siete davanti a un computer potete mandare una mail a voi siete qui, @radio24.it, o altrimenti se avete un profilo Facebook e ce l'avete aperto, e come si suol dire, se avete un profilo Facebook probabilmente oggi in questo momento ce l'avete aperto, il nostro è Voi Siete Qui Radio 24. Cliccate su mi piace e accedete a tutto il resto e fate come ha fatto Francesca, che ha immaginato la sua vita come un viaggio in treno. Boston, Melegnano, scuola New York, Melegnano, Florida lavoro, Melegnano, università Strasburgo, Melegnano. Direi che Melegnano è una stazione fissa di ritorno. Traduzioni, trasloco, indipendenza e scuola. E con me, tra i compagni di viaggio presenti sin dall'inizio, conto la famiglia, anche se mia sorella è sempre seduta sull'altra carrozza. E questo, qualunque cosa voglia dire, è abbastanza chiaro, anche se non racconta precisamente. E poi i nomi degli amici: Tamara, Raul, Silvia, eccetera, eccetera. E Paola, che a un certo punto è scesa senza avvisare. Qualcuno che ho chiuso la porta in faccia quando il treno è ripartito e lui cercava di risalire dopo essere sceso per fumarsi una sigaretta. E poi i miei compagni di viaggio del treno del mattino, quello vero, l'S1. L'S1 cos'è, Margherita? È il passante, giusto? È il passante che arriva da... Cioè, sono i treni regionali che arrivano fuori, che arrivano da fuori Milano ed entrano a Milano. No, non solo da Varese, anche da Novara, mi pare. In generale, da fuori Milano. Insomma, i compagni del viaggio del treno del mattino, e non li elenco proprio tutti, perché sarebbe l'indice della mia biografia. Ecco, anche questo è un altro modo per immaginare la propria vita. Come un viaggio in treno, come i compagni e le stazioni, come l'indice della propria autobiografia. 349-238-6666. Il racconto di oggi è leggermente diverso dagli altri, nel senso che la storia di Ivana... Ivana ha immaginato e ha raccontato la sua vita come se fosse un viaggio in treno. Voi sapete che in questo programma in realtà noi non vi chiediamo delle biografie, vi chiediamo degli episodi della vostra vita. In questo caso però, oltre a essere molto bello, ad avere una sorta di profumo molto romantica, questa storia, diciamo, l'abbiamo accettata perché Ivana ha 70 anni e quindi è come se guardasse da lontano l'inizio della sua vita. Ho viaggiato su un treno sbuffante di fumo, seduta fra i sacchi di un vagone bestiame. Avevo 3 anni e piangevo di fame. Andava lento quel treno di ferro fra case distrutte e buche di bombe. Poi si fermava perché non c'era più il ponte. E allora a piedi si guadava il torrente e si prendeva l'altro treno di fronte. Ho viaggiato su un treno stipato di gente. I miei anni erano 4 o poco meno. Carrozze strapiene, persone ammassate, in piedi, nei corridoi o sedute per terra, fra mucchi di borse e di sacchi. Mi fecero entrare passandomi a braccia dal finestrino. Mi sistemarono in alto sulla rete dei pacchi. Mia madre dormiva in fondo al vagone, seduta su una vecchia valigia di pelle marrone. Il primo ricordo della mia vita è quello di un caccia, un aereo che bombardava e qualcuno si è buttato su di me per proteggermi. E dalla prima classe poi arrivò in aiuto un uomo elegante. «È Bartali!» disse qualcuno. «Viva Bartali! Viva il campione italiano!» Lo conoscevano tutti e a tutti lui strinse la mano. Mi tirò fuori dalla rete dei pacchi e mi portò nell'altro vagone, dove in silenzio sedevano solo signori distinti. Lasciò il suo posto a mia madre e mi addormentai fra le sue braccia, in un sedile di velluto rosso, senza scossoni né spinte. Erano felici quei treni, divisi in tre classi, con sedili di legno ben lucidato. Sbatacchiavano allegri fra i boschi e le case, martellavano con potenti, gioiosi fracassi come magli di ferro pesante. Si fermavano ad ogni stazione, fischiavano ad ogni passaggio a livello, a ogni casello. Al passare del treno salutavano i bimbi con i fazzoletti in mano. Alzavano la schiena per un breve riposo i contadini e le mondine. Si stava alla finestra per ricambiare i saluti, per catturare paesaggi, odori, città, colori. Sempre fuori, con la testa, per poi rientrare in galleria. Gallerie strette, nere, con l'odore di carbone e poi improvvisi sprazzi di luce d'azzurro. Il mare. D'estate finestrini sempre aperti. Entrava fortissimo un vento prepotente, caldo. Sferzava capelli e facce. D'inverno finestrini gelati con arabeschi di ghiaccio. Si riempivano i vagoni di fumo, di vapori, di canti, di parole. E poi a 18 anni il primo viaggio da sola. Andavo a Rotterdam, da Mariette, l'amica olandese, per un premio alla fine della scuola. E a Milano salivano in tanti, soprattutto migranti, con valigie di cartone e borse strapiene di cibo, di stracci, mal chiuse dallo spago. Parlavano forte, si salutavano, si chiamavano, si spostavano. Mangiavano pane e cipolle, salame e pomodori freschi. Il vino lo bevevano dai fiaschi, ma quando il treno partì si fecero muti, seri. Il grigiore di Stoccarda, i fiumi della Ruhr velarono i loro pensieri. Ci fu silenzio in tutti i vagoni. Scesero il mattino seguente, pochi per volta, in stazioni nebbiose. In Germania andavo a trovare un'amica, un'olandese, che si chiamava Mariette. Sono stato un mese in casa sua, ospite, nell'ambito di un ricambio di ospitalità. Negli anni seguenti ho viaggiato tanto, ho viaggiato seduta in scomparti fumosi. Ho parlato, ho letto, ho dormito, ho studiato. Ho conosciuto tante persone, mille visi adesso scordati, mille voci ormai perse nel fracasso del ferro. Ho preso treni sempre più in fretta, correndo, salendo e scendendo da mille stazioni, senza rendermi conto del viaggio, senza sapere la mia direzione. Ho viaggiato tanto, mentre veloci passavano gli anni, regolari, costanti, come il ritmo del treno, uguali e confusi come gli alberi che mi correvano incontro. Ora viaggio su un treno velocissimo, un espresso. Alberi, case, cartelli e piloni volano via come strisce indistinte. Poco a poco si svuota il mio treno, scendono in tanti ad ogni stazione. Accanto a me sempre meno persone, sempre meno compagni di viaggio. Anch'io fra poco scenderò dal treno ad una prossima ignota fermata. Se la nostra vita fosse un lungo viaggio in treno, in quali stazioni si fermerebbe? La storia di Ivana parla di questo, in fondo. Degli episodi importanti della sua vita descritti come fossero un treno in corsa. È una bella immagine quella del tempo che scorre lungo un binario e le fermate come luoghi e le persone importanti della nostra vita. Provate ad immaginarla così, la vostra vita, provateci. Dal primo ricordo che avete. Immaginatela come un treno in corsa carico di gente e pieno di fermate che vi aspettano. Io il mio treno l'ho preso nel 75, è partito nel 75, 1975. Però mi ricordo di essere in viaggio più o meno dal 79. La prima fermata che ricordo è un campeggio in un paese che si chiama Roseto degli Abruzzi. E i compagni di viaggio sono una famiglia di amici dei miei, con loro figlio, Pierpaolo. Lui è più grande di me, ma io sono più molesto. Ho le gambe corte e la faccia cattiva. Parlo poco e lo prendo a manate. Più che ricordi ho delle foto di quella stazione e qualche racconto delle persone che erano con me. Da lì in avanti la corsa continua. Si ferma all'asilo del mio paese e alla scuola elementare, a 100 metri da casa. Si ferma alle scuole medie e poi al seminario, a Novara. Quella è un'altra fermata importante perché ci sono un sacco di compagni qui, solo maschi. Nell'età in cui si iniziano a cercare le ragazze, noi siamo un vagone unicamente maschile e le guardiamo passare fuori dai finestrini. Il treno all'epoca sembra lento, ora invece, visto da qui, sembra andare velocissimo. Si ferma a Novara, poi arriva a Milano e da lì riparte facendo tappa nei teatri di molte città italiane, del sud, del centro, del nord. Sono tappe velocissime. Ci si ferma, si fa spettacolo e si riparte. In quegli anni però il treno inizia ad andare talmente veloce che non mi accorgo che le cose ferme intorno a me iniziano a svanire, come se non ne vedessi più i contorni. Mi accorgo che quella corsa ha iniziato ad essere leggermente fuori controllo. Il treno corre per il gusto di correre, ma non so chi lo stia pilotando e non so nemmeno se sappia esattamente dove andare. In quegli anni in cui i compagni di viaggio intorno a me per fortuna sono amici e sono d'accordo con me, decido di fare un salto nella carrozza di testa del treno e alla stazione successiva cambio direzione. Cambiano le fermate, cambiano i compagni di viaggio, ma non cambia lo spazio e il tempo che continuano a scorrere fuori dai finestrini. Quella stazione, la prima, quella di Roseto degli Abruzzi, in un campeggio in piena estate, fine anni 70, sembra lontanissimo. Eppure chi ci sta sopra non è così diverso da allora. La famiglia è un po' più lontana, ma sempre a bordo. Gli amici, saliti a qualche stazione dopo, non sono poi tanto diversi. E i binari sotto di me non si fermano. Non so quale sarà la prossima stazione e non so nemmeno quali saranno i prossimi compagni di viaggio. La cosa che mi devo ricordare però è di non dare mai per scontata la corsa e la direzione del treno. E se serve ogni tanto, fare un salto alla locomotiva, cambiargli rotta. Perché non è vero che i treni vanno sempre nella stessa direzione. E questa idea che ha di fatto lanciato Ivana con la sua storia è il fatto che la nostra vita abbia delle stazioni, abbia delle tappe, come se fosse un viaggio in treno, mi ha fatto riflettere proprio su come in realtà le stazioni non siano solo dei luoghi, no? Non siano solo delle città o la scuola in cui sei passato perché hai studiato, ma siano anche delle persone, siano delle sensazioni magari, o comunque delle stagioni della nostra vita. Però, visto che è venuta idea l'Ivana di raccontare questa storia, lo chiedo direttamente a lei. Pronto Ivana? Pronto, sì, sono in linea. Ciao, buongiorno, come stai? Ciao, bene, grazie. Dove ti trovi adesso Ivana esattamente? Allora, io mi trovo lungo l'autostrada per andare verso Piacenza e la direzione Trieste, quindi ho ancora un bel po' di strada da fare. Perché tu sei triestina, giusto? No, io sono di Albisola, Savona, e sto andando a Trieste da mia figlia perché sono nonna e devo andare a fare un'emergenza nonne, come capita spesso. L'emergenza nonna è che devi tenere il nipote, bambino, insomma. Il nipotino, sì, sì, certo. Senti, tu che cosa hai fatto nella tua vita, Ivana? Allora, come se partiamo proprio dalle origini, sono nata nel 42, quindi in piena guerra, e ho dei ricordi proprio del primo periodo, anche bellico e post bellico, perché erano un pochino forti, poi semmai se vuoi ne riparliamo, di quel periodo ho discreti ricordi. Sì. Poi come dal punto di vista professionale, poi ho studiato, ho fatto liceo classico, mi sono laureata in biologia. E ho fatto per un po' d'anni la ricerca all'Università di Genova. Ma questo in che anni, Ivana? Negli anni fine 60, i primi del 70. Poi è nata mia figlia, ho cominciato a insegnare e ho continuato a insegnare con piacere, mi piaceva. E insegnavi no, cosa? Biologia, scienze? Biologia, chimica, scienze, tutto quel filone lì che c'è nelle materie scientifiche, nelle secondarie. Superiori, sì. Superiori, sì. Poi ho finito al liceo scientifico. E a 60 anni sono andata regolarmente in pensione perché allora si poteva. Certo, immagino. Senti, com'era la ricerca in quegli anni? Non so se tu hai idea di come sia la ricerca oggi, però poi ce l'hai una fotografia della differenza tra la ricerca scientifica 30 anni fa? Sì, quasi 40. Quasi 40 e oggi? Quasi 40, sì. Diciamo che era prima di tutto già allora molto difficile entrare e fare della ricerca all'università, perché laurearsi era facile, ma trovare un posto facile, insomma, relativamente, trovare un posto interno dove fare ricerca, diciamo che era un bel po' difficile, e perché i posti erano pochi. Io in qualche modo ero riuscita a entrare. Avrei preferito fare proprio ricerca biologica, però c'era un posto a farmacologia e a farmacologia. Ho fatto quello. Sì. Senti, invece, scusami, perché questa cosa del viaggio in treno, no? La vita come un viaggio in treno, l'avrei capito, sì, mi è piaciuta moltissimo. Esatto. E questo pezzo di viaggio con Bartali me lo racconti, quando hai incontrato Gino Bartali. Quanti anni avevi tu? Allora, io avrò avuto fra 3-4 anni, più o meno. Ah, eri minuscola proprio. Minuscola, ma è interessante una cosa. I ricordi di quel periodo li ho molto netti, anche con immagini, forse perché si continuavano a ripetere, cioè non c'era la televisione, no? E allora la sera si parlava, si andava a visitare gli amici, si diceva si va a vegliare, si diceva, no? A vegliare, cioè a passare la sera. A fare la sera, e si ricordava in continuazione certi episodi, perché bisognava pur parlare di qualcosa. E i bambini in quel modo fissavano i ricordi, perché sentendo per esempio questo episodio qui di Bartali ricordato più volte, io l'ho nettissimo con tutte le immagini, per cui così esattamente come l'ho riferito. Senti, lui com'era? Era cortese con tutti? Veramente, perché ha capito che nella carrozza accanto c'erano delle cose, come poi leggerai, abbastanza difficili per i passeggeri, perché era appena finita la guerra. Certo. Lui era in una carrozza evidentemente di prima, penso, e allora o forse ha visto che mi hanno portato attraverso il finestrino, insomma non lo so, comunque è venuto nella nostra carrozza, ha offerto il suo posto in prima a mia mamma, che finalmente mi ha preso, e così siamo stati seduti per tutto un bel pezzo del viaggio. Certo. Insomma. Senti, ma mi sbaglio o sento della musica classica in sottofondo? È un buon udito, quasi non la sento io, però sì, c'è un sottofondo perché ci siamo fermati e la radio. Ma sei con tuo marito? Sì. Ah, ok. Sì. Senti, invece... Se dà fastidio... Ma no, assolutamente, assolutamente, okay. Non ti preoccupare. No. Volevo chiederti, l'emergenza nipoti in cosa consiste? Vai là, tua figlia deve andare via... Mia figlia deve andare in America per lavoro e io devo andare a fare la nonna, tenere il bambino, portarla a scuola, andarla a prendere... Che cosa ci va a fare, scusami, Mia figlia lavora al Collegio del Mondo Unito a Trieste e in questo periodo ha degli impegni da fare negli Stati Uniti e quindi starà via una settimana, 10 giorni. Senti, perdonami la curiosità, però davvero a questo punto ti chiedo tutto. Che cos'è il Collegio del Mondo Unito? Allora, il Collegio del Mondo Unito è un college delle Nazioni Unite che c'è a Duino, a Trieste, in cui vanno a fare gli ultimi anni, diciamo, del college, i ragazzi che prendono borse di studio, i migliori nel mondo che prendono borse di studio e possono studiare gli ultimi 2 anni lì, e poi da lì possono andare nelle varie università. Ivana, grazie per la chiacchierata piacevolissima, sì. Vi lascio proseguire il vostro viaggio e grazie anche per la storia. Grazie. Ciao Ivana, buona giornata, grazie. Grazie. È elegantissima Ivana nella foto che ci ha mandato, che trovate sul sito di Radio 24 alla pagina Voi siete qui. È elegantissima e anche da quello che si vede dietro sembra in un posto molto elegante o comunque molto cerimonioso. C'è un drappo rosso che potrebbe essere quasi il sipario di un teatro. Lei è seduta su una sorta di divanetto arancione, ha addosso credo una camicia di raso verde, ha gli occhiali con la montatura rossa, i capelli rossi, ma è soprattutto similissima a Meryl Streep. Stazione, sostantivo femminile. Luogo di sosta temporanea di veicoli di vario genere. Nel linguaggio liturgico, stazione della Via Crucis, ciascuno dei 14 episodi della Passione di Cristo, davanti alle cui raffigurazioni sostano in preghiera i fedeli nella pratica devota della Via Crucis. Nelle telecomunicazioni, complesso di impianti di trasmissione o di ricezione di segnali. Stazione trasmittente, ricevente. Stazione dei Carabinieri, unità elementare operativa dell'Arma dei Carabinieri. Luogo di stanziamento di comunità umane, animali o piante. S. trasmittente, cosa vuol dire? Questa nuova base che abbiamo messo oggi per la prima volta ha creato un po' di scompiglio e c'è un sacco di gente che mi chiede che cos'è e da dove arriva. Ascoltatela 5 secondi, secondo me vi viene in mente. Questa è una cover di un pezzo che in realtà è un pezzo rock, no? Sono rock loro. È una cover di Where Is My Mind dei Pixies, che per chi è esperto di cinema, vabbè, era un pezzo di Fight Club, più o meno. Visto che tutti continuate a chiederla, l'abbiamo postata sul profilo Facebook del programma, che vi ricordo è Voi Siete Qui Radio 24, ci cliccate sopra, cliccate sul like, sul mi piace e avete accesso a questa nuova base che, vi ripeto, è una cover di Where Is My Mind dei Pixies fatta da Maxence Cyrin. 349-238-6666. C'è non so chi che mi scrive: certo che recita bene tua nonna nella parte di Ivana. Guarda, a me piacerebbe che mia nonna potesse recitare la parte di Ivana. In questo momento non è proprio nelle condizioni di farlo. Quindi se avete voglia di andare a vedere com'è invece Ivana, andate sul sito di Radio 24. Le stazioni che avete passato nella vostra vita immaginandola come un viaggio in treno, mi scrive Nicola: Sarnico, Cochabamba, Sarnico, Cochabamba, Anzaldo e Una Vita Nuova, ovviamente passando dal Salar di Uyuni. Potrebbe avere scritto qualsiasi cosa. No, Cochabamba lo so che cos'è. Adesso ve lo dico anche. Cochabamba è un po', vabbè, un posto che si trova esattamente in Bolivia. In Bolivia. Grazie mille. Margherita Ina è stata molto più veloce di me. Ringrazio anche, ve lo dico subito, chi? Sara, che sul profilo Facebook ha postato giustamente la lettura di una poesia di Giorgio Caproni che si chiama Congedo del viaggiatore cerimonioso, che è una poesia bellissima che parla proprio di quest'uomo che sta scendendo da un treno, qualunque esso sia, e saluta e si congeda dai suoi viaggiatori, dai suoi compagni di viaggio. Amici, credo che sia meglio per me cominciare a tira giù la valigia. A questo proposito la ringrazio anche perché il pezzo che voglio leggervi è in realtà la riscrittura di una sorta di monologo che c'è in un documentario molto bello, anche quello postato sul profilo Facebook, che si chiama Il passaggio della linea, che racconta la vita delle persone sui treni, ma comincia e finisce con il racconto in prima persona di Arturo, che è una persona anziana che di fatto da qualche tempo vive, o forse viveva, su un treno. Il treno da Bolzano arriva la mattina alle 6 a Roma. Il treno da Bolzano arriva la mattina alle 6 da Roma. E l'ultimo parte alle 10.40 da Roma e la mattina sono a Bolzano. Avevo l'abbonamento in Bolzano-Roma. 315 euro. Potevo andare e venire tutti i giorni. Con 315 euro potevo andare e venire tutti i giorni. Ero il capo del mio movimento. Sono stato arrestato, processato. Ho avuto un processo con questore di Bolzano, con questore di Trento. Ho avuto più processi io che tutto il resto. Offese al capo dello Stato, offese al questore, offese a chiunque. Ho dovuto prendere i più grandi avvocati del paese per salvarmi, perché gli avvocati di Bolzano non erano più in grado di difendermi. Esprimere le proprie idee è sempre un pericolo, perché viene falsificato tutto. Nel momento in cui lei espone delle idee, poi le interpretano un po' come vogliono. Quindi falsificano tutto. Volevano farmi fare la fine di tutti gli anziani, mandarmi alla casa di riposo, vivere bene, mangiare e bere e addormentarsi il cervello. Mangi, bevi, diventi una bestia. E chiuso. Piuttosto che andare al ricovero, vivo sul treno, dove vai e vieni. Nessuno ti rompe le scatole. Ieri sera ho perso il treno, ho dovuto prendere un treno notturno. Mi hanno svegliato a Bologna. Mi buttano fuori da un vagone e monto su un altro. In treno la casa è assicurata. Caro Matteo, il tema di oggi mi frega perché, soffrendo di mal di treno, se dovessi descrivere la mia vita come un viaggio in treno, dovrei dare il titolo La Grande Nausea. La Grande Nausea. Questo pezzo, quest'ultimo pezzo che avete sentito è un brano che si chiama Wildest Moments e la canta Jessie Ware, che è una cantante, oddio, americana, credo. Vabbè, non c'è, Bonino è scappato, quindi non possiamo dirlo. Ma trovate tutto sul sito di Radio 24, trovate la foto, in questo caso di Ivana, trovate la mappa che continuiamo a comporre con le storie che ci mandate, trovate i brani che potete ascoltare cliccandoci sopra perché sono linkabili da YouTube, e trovate il nome di chi fa questo programma, trovate tutte le storie che volete nell'archivio, soprattutto trovate i podcast se volete sentirlo non in diretta, ovunque lo volete, comunque lo vogliate. Grazie a Tiziano Bonini, grazie a Pietro Lacorte e a Margherita Hina. La sera di oggi era di Ivana, e anche lei è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Francesca Bertini, sono di Pesaro. La storia di domani è la mia e parla del metodo Leonardo, che è un metodo che permette ai bambini in età prescolare di imparare l'inglese. Questa è la mia storia e io sono qui.